want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telespro. Mi ero preparato una presentazione bellissima per te, però poi quando ti incontro, e vista anche la nostra lontana amicizia, mi dimentico tu. In questo momento vicina amicizia. Sì, ma lontana amicizia, mi dimentico tutto, però intanto ti faccio i complimenti, perché sei sempre in anticipo, il che dimostra sempre che hai swing. È bellissimo verificare di persona che a casa tua l'albero di Natale è già illuminato e funzionante. Complimenti a Renzo Arbore. Grazie, grazie. Grazie a Nadia e a Marites, l'albero di Natale è già pronto, bisogna il primo e il più bell'albero di Natale di Roma. Questo è proprio assolutamente dai tempi di Giulio Cesare. Io lo devo confessare subito agli amici di Radio 24 qui per il soundcheck che l'albero di Natale a casa di Renzo Arbore viene installato esattamente intorno al 30 di ottobre, quindi anticipi di quasi 2 mesi l'evento natalizio, quasi come se tu fossi in persona Babbo Natale. Sì, assolutamente sì, c'è anche qualche accento di vanità per questa cosa prematura, perché vengono i fotografi a casa mia per far uscire i giornali i giorni natalizi e quindi io me li tolgo prima, capito? Cioè, fa l'albero di Natale prima. E poi perché è festoso il Natale, non c'è solo l'albero come tu sei a casa mia, ci sono i neri che cantano le cose eccetera, il Babbo Natale robot che gira per la casa con un telecomando portando caramelle e cioccolatini ai convenuti, insomma ci sono tutto, cioè le canzoni di Natale, insomma tutto quello che il bagaglio di Natale in questo I am American. Allora, fammi questa domanda: perché sei tornato a casa mia a trovarmi così come fai tu? Perché sei tornato a casa mia a trovarmi, Gegè? Allora, caro Renzo, sono tornato a casa tua perché vorrei che tu mi raccontassi un po' della tua esperienza americana. Quando noi siamo stati insieme per un'intera settimana, la prima settimana di soundcheck qui su Radio 24, mi avevi anticipato dell'uscita internazionale di questo disco con le più belle melodie italiane selezionate per il mercato internazionale e quindi in lingua inglese. Sei stato a New York a presentare questa pubblicazione con una bellissima festa lì a Italy, che è questo centro di gourmet, di cucina, di cibi vari che arrivano dall'Italia di grandissima qualità, che è presente anche a New York, a Torino e a Roma. E volevo che tu mi raccontassi un po' dell'esperienza, approfittando del fatto che queste 2 giornate che trascorreremo insieme qui per il soundcheck saranno dedicate musicalmente parlando a una delle nostre città preferite per quanto riguarda la musica e il cibo, che è New Orleans. Allora, se parliamo di New Orleans è una cosa, se parliamo di New York è un'altra. New York. Allora facciamo una cosa, partiamo prima da New Orleans, perché così presentiamo subito una delle nostre band preferite, che sono The Wild Magnolias, che praticamente sono un'istituzione. Allora, New Orleans, perché è così importante per la musica e anche per il tuo palato? Allora, la città del jazz e del food in New Orleans, pochi sanno che è anche del food, perché lì ci sono 2 cucine straordinarie, che sono la cucina creole e la cucina Cajun. Io preferisco la cucina Cajun, quella creola è molto raffinata, franco-spagnola, quindi camerieri in polpe, capisci questa parola? Sedie e poltrone di velluto, insomma grande cucina, le ostriche Rockefeller, che significa con gli spinaci, con il burro, con le cose, mentre la cucina Cajun è quella popolare dove si mangia anche il coccodrillo e le ghetto, dove si mangiano quelle cose, ed è speziata, è molto buona, e al festival di New Orleans che si svolge a maggio ogni anno, Heritage, Jazz Heritage, eredità del jazz, c'è anche le bancarelle con tutte le cucine Cajun, con tutte le specialità eccetera. Allora, quindi, visto che stiamo già assaporando la cucina tipica di New Orleans e in sottofondo sentiamo già il groove dei Wild Magnolias, istituzione musicale di quella bellissima città, il brano non poteva che essere un classico, cioè una canzone, un ritmo che i bambini di New Orleans imparano addirittura prima dell'inno nazionale. Brother John is gone, The Wild Magnolias al soundcheck di Radio 24. Beh, no, bisogna dire, Brother John is gone, che a New Orleans, come in tutta la Louisiana, c'è un carniere di musica particolare, proprio tipica della Louisiana, così come a Napoli ci sono le canzoni napoletane, a New Orleans ci sono le canzoni della Louisiana. Brother John è una delle più famose, insieme con tante altre canzoni che parlano di gambo, che è un'altra specialità alimentare, eccetera, eccetera. Io ho conosciuto i Wild Magnolias, abbiamo sfilato per il 25enne del festival tanti anni fa, e quindi era molto divertente. Si parla di New Orleans, di cibo e altro con Renzo Arbore al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24, siamo tornati a casa di Renzo Arbore, dove è già Natale ormai da un mese e dove abbiamo ascoltato questo bellissimo brano intitolato Toro Infirmary per la voce di Dr. John, ospite in verità del quintetto del sassofonista Bob Malak, una registrazione della Go Jazz di alcuni anni fa. Dr. John, anche lui, è un cantante pianista che arriva da New Orleans, noi l'abbiamo ospitato anche in alcuni programmi televisivi anni fa, una vera istituzione, e anche Dr. John è un po' come un presidente della Repubblica a New Orleans. Assolutamente sì, è il rappresentante più tipico della musica, che dicevamo prima, della musica di New Orleans, che è un misto che naturalmente parte dal jazz tradizionale e poi sposa tutti i ritmi moderni. Dr. John ha avuto una lunghissima evoluzione, devo dire che le ritmiche inventate da Dr. John sono veramente qualcosa di straordinario, e mio amico, veste così, io l'ho presentato all'altra domenica molto anni fa con il suo turbante, tutte le sue penne, le cose, perché è un bizzarro personaggio che si veste anche alla maniera del carnevale di New Orleans, anche quando non è carnevale. È anche considerato una sorta di sciamano, vero? Col suo mojo. Mojo working. Beh, certo, lui è uno sciamano. Poi naturalmente a New Orleans è una città magica, c'è il voodoo, i riti voodoo, lui lo ha descritto, le canta, insomma è molto affascinante come personaggio. Qualche volta viene in Italia, non è molto conosciuto, tranne che da me e da JJ, che lo bazzichiamo e lo frequentiamo tantissimo. Quando si arriva a New Orleans, il primo contatto che si ha con la musica in quella bellissima città è proprio passeggiando per le strade, perché una caratteristica di quella città sono le marching band. Le marching band sfilano per New Orleans di giorno e di notte, accompagnando eventi diversi, più disparati, che vanno dai funerali ai matrimoni, alle feste di piazza, ai battesimi e via dicendo. E anche le nuove generazioni, ma anche le vecchie di musicisti di New Orleans vengono svezzati marciando e suonando i loro strumenti con le marching band. Fra questi, a partire da Louis Armstrong in poi, tutti i musicisti di New Orleans passano per le marching band. Qual è la caratteristica di queste formazioni? È proprio l'andazzo ritmico, che è riconosciuto come second line. Il maestro Arbore spiegherà a noi tutti perché si chiama second line. Allora, innanzitutto non si può morire a New Orleans senza avere la marching band susseguente. La marching band comincia tristissima con una canzone che si chiama He Didn't Ramble e poi diventa assolutamente giocosa e festosa, perché anche la dipartita a New Orleans può essere festosa e tutti parlano. Il second line è un ritmo che porta la seconda linea di batteristi, di rullanti. Naturalmente a New Orleans non si può suonare la batteria marciando, si devono suonare il rullante, quella parte centrale della batteria, e il ritmo deve essere il ritmo del jazz senza essere il ritmo del jazz, quindi deve essere raddoppiato, diventa una specie di particolarissima rumba, e quindi è veramente interessante. E io stesso con te abbiamo fatto un arrangiamento di una canzone in Second Line, però è una canzone napoletana che abbiamo ribattezzato. Non in questo momento non la metteremo qui a Radio 24. Ma ispirati però da una delle band più forti di New Orleans, una vera istituzione e un modello da seguire per tutte le marching band. In Italia ce ne sono diverse oggi, a partire dai Funkoff, che sono nostri amici, ma questo è il modello da seguire: The Dirty Dozen Brass Band, e questo è un classico di New Orleans, My Feet Can Feel Me Now. Soundcheck, il suono della musica. Sì, di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24, di nuovo qui per voi da casa Arbore. L'abbiamo già detto, è coloratissima, anche perché l'albero di Natale svetta quasi a toccare il soffitto di questo bellissimo attico di Renzo. Ed è l'albero di Natale. Beh, non è proprio il più bello, i più belli si vedono a New York. Però è a modello new yorkese. Questo è il più bel albero di Natale di Roma dai tempi di Giulio Cesare. Addirittura, esatto. Devo dire che forse uno dei motivi per il quale Giulio Cesare fu ammazzato da Bruto è proprio il fatto che il figlio invidia. È l'invidia terribile che aveva per il padre, che aveva fatto allora un bellissimo albero di Natale, tutto con pezzi romani, pezzi guanciale, pancetta. E invece la cosa bella del tuo albero di Natale è che è decorato con cose veramente diverse. Ci sono anche dei pezzi di salame, non so di quale stagione, però c'è di tutto, anche oggetti tipici di New York e di New Orleans. A proposito di New York, ecco, tu, stavamo dicendo, sei stata a New York per presentare questa nuova pubblicazione. Adesso faremo ascoltare la tua versione inglese di Anima e Core, intitolata qui How Wonderful to Know. Questa era una versione già pubblicata in precedenza. L'hai recuperata questa versione inglese o l'hai fatta? L'ho fatta espressa, perché poi oltretutto dovevamo fare abbiamo fatto una bellissima serata a Italy, quella di Farinetti lì a New York, dove c'era Lorenzo Giovanotti, che generosamente mi ha presentato come il suo papà spirituale, DJ della prima ora, eccetera. Poi io ho presentato Mina con il figlio Massimiliano, con un filmato di 20 minuti, poi c'era un filmato di 20 minuti di me, poi c'era Isabella Rossellini, con la quale abbiamo cantato Il Materasso in versione americana, poi c'era Bastianic, quello sciagurato che cucina e approva o condanna i cuochi, insomma c'era Giovanni Rana, insomma era una serata molto speciale dedicata alla cultura italiana, e c'era soprattutto Alessandro Baricco con un bellissimo libro in americano che si chiama I Barbari. E allora io ho cantato, accompagnato da un grandissimo pianista italiano che vive a New York, si chiama Dado Moroni, ho cantato questa I Wonderful to Know, che è la versione americana di una bellissima canzone italiana che tutti ci invidiano, che è Anima e Core. To share this life with you now and hereafter, how wonderful to know that you are mine. E con questa bellissima versione di Anima e Core in edizione inglese, chi ha scritto il testo in inglese? Il testo in inglese era già preesistente, anni fa lo aveva cantato un cantante inglese che si chiamava Cliff Richard, che poi fu soffocato dai Beatles, che arrivarono e si mangiarono tutta la popolarità di Cliff Richard. Allora, noi ci salutiamo, chiudiamo con il sound di New Orleans, questo di un nuovo esponente di New Orleans, ma ormai non tanto nuovo, perché da più di 15 anni fa musica a grandissimi livelli, molto legato alla tradizione, ma è anche uno dei trombettisti contemporanei più apprezzati. Il brano, un classico dal suo album dedicato a New Orleans, Dear Louis, lui è Nicholas Payton. Posso il brano. Sì, Patton, prego. Naturalmente sono quei trombettisti che hanno le carte in regola, del resto come Wynton Marsalis. Conoscono la tradizione, fa i brani di Armstrong, qualche volta lo imita per divertimento e poi va avanti sulla strada della musica proprio tipica di New Orleans, che parte dal jazz antico della tradizione e va avanti e inventa nuove strade. Questo è un brano che non vogliamo dedicare a nessuno perché si intitola I'll Be Glad When You're Dead, ovvero sarò felice quando sarai morto, ma ecco questo brano divertentissimo di Nicholas Payton che vi lasciamo e ci risentiamo domani sempre qui da Casa Arbore per il soundcheck di Radio 24. I'll be standing on a corner high when they bring your body by. I'll be glad when you dig it out. Soundcheck. Il suono della musica.